elementare, Watson. La scienza risponde alle vostre domande. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Questa domanda di Simone ha cambiato un pezzo della mia vita. Ah sì? Quindi la soluzione della domanda di Simona, ecco, ha cambiato quella roba lì. E domanda strisciante, direi, quella di Simona. Sentiamola. Nel mio giardino le lumache mi avevano mangiato tutte le foglie delle piante. Ho letto che uno dei rimedi più efficaci è mettere un piattino di birra. Ho provato e in effetti ho fatto una strage. Come mai le lumache sono attratte dalla birra? Grazie. Posso dire che avevo questo problema e poi grazie a questa domanda ho provato e l'ho risolto? Quindi, funzionare funziona. Ah, l'ho visto. Ecco, e però perché funziona, come funziona e qual è il meccanismo, andiamo a chiederlo ad uno dei nostri esperti. Allora andiamo dal professore di zoologia dell'Università degli Studi di Milano e diamo il benvenuto al dottor Bruno Rossaro. Salve a tutti. Allora, cosa rispondiamo alla nostra ascoltatrice? Come mai le lumache sono ghiotte di birra, sono delle ubriacone? Diciamo che premetto che in questi casi ci sono diverse opinioni. Diciamo che fondamentalmente sembra che certamente le lumache sono attratte da qualcosa che può essere per loro di nutrimento o comunque di attrattivo. Probabilmente la birra, contenendo del lievito e contenendo anche del malto, potrebbe essere un attrattivo per le lumache in quanto fa da nutrimento. Ma quindi loro sentirebbero che cosa? Il profumo? Loro sentono, praticamente sarebbero attratte, sì, probabilmente hanno dei sensori olfattivi che miocettori che gli permettono di percepire l'odore di questa sostanza che è a loro gradita e quindi sono attirate. Dico la verità, in letteratura non c'è un consenso unanime sul fatto che questi animali siano effettivamente trattabili in questo modo, ci sono delle sostanze che hanno il difetto di essere tossiche, ma che comunque vengono normalmente utilizzate per combattere questi animali, sono un misto di sostanze tossiche e di sostanze attrattive, per cui per esempio certamente utilizzare la birra e insieme questi, non so, la metaldeide potrebbe essere un sistema per eliminarle se non le vuole eliminare. Mm. Però Federico mi sembra che l'abbia provata con la birra pura. Ripeto, le ipotesi, io ho visto un lavoro di una rivista polacca dove sostiene che la birra non faccia nulla, mentre c'è un lavoro di una rivista colombiana che dice che invece la birra è efficace. Federico, quindi tu dovresti scrivere. No, mi scusi Rossano, allora prego. Io ho messo 3-4 piattini di birra più volte. Sì, e le hanno attirate. E la mattina dopo io avevo una ventina di lumache per piattino, non di meno. No, ma indubbiamente la birra le attrae. Sì. Poi il problema è se poi alla fine questi animali vengono poi eliminati, perché potrebbero morire per che cosa? Per avvelenamento? La birra non dovrebbe farle morire, o annegano nella birra. Questa è la cosa che potrebbero. Vengono uccisi dalla birra? No. No, la cosa sorprendente è che piace a loro così tanto che ci si infilano e finiscono sott'acqua. È abbastanza comune con gli insetti, non so, anche per esempio per esterminare le vespe a volte si usano delle bottiglie di vetro e si cosparge il collo della bottiglia con della marmellata e queste le vespe sono attirate e poi una volta che entrano chiaramente non riescono più a uscire. Mm. Ci sono delle trappole, però con questo non è che la marmellata uccide le vespe. No, potrebbe essere una cosa simile. È la materia, in questo caso il liquido, che finisce per annegare. Ecco, ma esatto. Quello che però verrebbe fuori è che le lumache nella loro normale vita non incontrano birra, però non sanno che la birra è particolarmente attrattiva, non sanno che a loro piace moltissimo. Una volta che gliela mettiamo lì davanti, loro finiscono per essere attratte, no? Siccome nella birra c'è dentro del lievito e del malto, queste sostanze sono comuni in natura, per cui l'animale ha imparato ad essere attratto da sostanze, che il lievito è ricco di vitamina B, per cui... E come la percepiscono? Non hanno un nasino con le antenne? Hanno dei chemiocettori, hanno degli organi di senso situati alla base, sulle antenne, che percepiscono questi odori, Poi si crea una strage, però. Anche qui bisogna vedere, perché può darsi che, da quel che ho capito, ci sono delle condizioni in cui la cosa ha funzionato e altre condizioni in cui parla, per esempio, che certe specie la birra non ha avuto nessun effetto. Ah, poi giusto, potrebbe dipendere dipende da, anche. Potrebbe, per esempio, pare che i lumaconi, quelli senza guscio, siano più attratti, in effetti sono anche quelli più dannosi rispetto a quelli col guscio. Questo glielo devo dire, perché io ne ho trovato uno solo col guscio. Sembra che in effetti è più efficace sulle lumache senza guscio, e questo coincide con quello che mi sta dicendo lei. Forse se il piattino è profondo annegano davvero, magari se il piattino è meno profondo riescono a salvarsi. Sì, però le attira, ma non è che le uccide, cioè, ecco. Bisogna vedere qual è l'obiettivo, se l'obiettivo è di raccogliere tante lumache o di eliminarle. Credo che ci abbia detto tutto e lo ringraziamo. Ci mancherebbe. Grazie professore, buon Basta lavoro. Così? Bene. elementare@radio24.it. Ormai lo sapete, questa è la mail attraverso la quale ci potete scrivere le vostre domande di scienza. E noi risponderemo a tutto. Per esempio, come è noto, il giovane Superman dovette imparare ad usare i suoi ultrapoteri. È vero che a 7 anni, durante la menzione, presentava un classico effetto di azione-reazione, andava a sbattere contro la parete di fronte al water? Elementare, Watson.